Piace molto anche a me, ve lo confesso, quel sonetto che Berlusconi ha citato in un suo comizio a Pavia, mi sembra. È quello in cui il giovane Dante si augura che un buono incantatore lo porga in un vasello, su una barchetta cioè che si muova leggera sul mare, insieme ai suoi amici poeti Guido Cavalcanti e Appoggiani e i rispettivi poetici amori. Monna Vanna, che fu cantata da Guido, Monna Lagia, a cui andarono i versi di Lapo, e per quanto riguarda lui stesso, Dante, è quella che è sul numero delle 30, come a dire colei che dalla Vita Nova ci è nota come la prima donna dello schermo e che in un sirventese scritto dal sommo poeta in lode delle 100 più belle creature di Firenze occupava appunto il 30° posto. Dante, si sa, nei 14 versi del sonetto è un po' stretto, non si muove sempre completamente a suo agio. Anche questo esemplare non è un capolavoro assoluto, sembra un filino un po' troppo concettoso nella seconda quartina, l'auspicio che vivendo sempre in un talento di stare insieme sempre cresca il disio, ed è vagamente burocratico forse il tono con cui nei versi successivi si elencano le amate. Ma il tutto si salva per quel leggiadrissimo incipit, Guido, io vorrei che tu e Lapo e io, per la ripresa magliosa dell'ultima terzina, e quivi ragionar sempre d'amore, e per quel tono trasognato di vagheggiamento di un ideale di perfetto amore cortese. Un ideale che risulta a prima vista impossibile, perché a parte il fatto che di incantatori così servizievoli non se ne incontrano spesso, oggi come allora, è comunque probabile che se Monna Vanna e Monna Lagia non avranno avuto difficoltà ad accettare la compagnia di chi li aveva così lusinghevolmente raffigurate in versi, la ragazza a cui pensava Dante, la numero 30 in classifica, si sarà certamente risentita assai di più per le 29 che la precedevano che non compiaciuta delle 70 che venivano dopo, e appena letto il sirventese non aveva mancato di intimare al povero Alighieri di non farsi più vedere davanti a lei né in questo mondo né nell'altro. Ma i poeti... I poeti, si sa, non sono mai riusciti a capire le donne. Chi le donne riesce a capirlo benissimo, per sua stessa ripetuta dichiarazione, è l'ex presidente del Consiglio, che spesso ha fatto discretamente intendere in varie occasioni, anche pubbliche, di non avere mai avuto problemi con le signore e di non prevedere neanche d'averne in futuro, nonostante quella che lui stesso ha definito, non senza civetteria perché gli anni li porta bene, un'età avanzata. Sì che fa un po' specie a prendere dalle sue labbra che per una volta anche lui si è lasciato tentare dal sogno d'evasione di quel sonetto, in cui dopo tutto, con gli amici e con le donne amate, Dante si proponeva soltanto di ragionare, di parlare d'amore. Sì che fa un po' specie, perché l'impressione che l'opinione pubblica aveva avuto al contrario era quella che il cavaliere ai suoi tempi preferisse spingere la propria cavalleria un pochino più in là delle parole. Ma gli anni passati, se non gli hanno indebolito la fibra, hanno certamente modificato il suo modo di definirsi, di rapportarsi con il mondo. Ormai Berlusconi è definitivamente un politico, e per di più un politico italiano. E se c'è una cosa che contraddistingue i politici italiani è lo sconfinato amore per la parola. L'assoluta preferenza per il dire a discapito dell'agire. I veri leader di questo nostro paese, si è visto, sono molto più bravi a parlare delle proprie realizzazioni che non a realizzare completamente qualcosa. E se in questo il nostro, come si è visto, eccelle, è questo anche l'aspetto che lo rende, ahimè, simile ai suoi rivali, che quanto a capacità di produrre chiacchiere, abbiamo sentito in questi giorni, sono anch'esse di tutto assoluto rispetto. Per gli uni e per gli altri, per gli uni e per l'altro, anzi, il vasello di Dante potrebbe davvero essere la destinazione adeguata.